Franciuse in faccia, da chi non può capire mai nessuno ti abbraccia. Vista se ti sei solo un numero, hai un compito da aspettare. Il cervello in formatazione, lo stanno per ripristinare. Non ti conosco più, non ricordi il tuo passato. Non ti importa delle rinunce di chi è sfruttato. Pure anche tu, come me, eri dalla parte dei perdenti, dalla parte di chi non ce la fa, dalla parte di chi è marginato e non vive bene in questa società, dalla parte di chi rifiuta ogni forma di prevaricazione, in un mondo in cui ti pongono la lobotomizzazione. Un'altra giornata sprecata a lavorare, un'altra rinuncia alla giovinezza e da archiviare. Sei solo un consumatore da spremere e sfruttare. Ora non hai più la forza nemmeno di parlare. Scegli bene i tuoi nemici, ne vale il tuo futuro. Se stai con un vincente puoi essere protetto e sicuro. E non ricordi che anche tu eri dalla parte dei perdenti, dalla parte di chi non ce la fa, dalla parte di chi ti è ridicolizzato, da quella che chiamano civiltà, dalla parte di chi scappa e sogna ancora un mondo migliore, di chi non sta nel legge e non ha nessun pastore. Aiutare guerre fra poveri non servirà a niente, finiremo in un ospizio picchiati da un inserviente. Questo è il ringraziamento per l'impegno profuso in una vita di addestramento in cui ti è illuso. E se non va con salito e con tu che se non se provi a volare ti abbandono. Ma io rimarrò sempre dalla parte dei perdenti, dalla parte di chi non ce la fa, dalla parte di chi sogna ancora la vera libertà, dalla parte di chi non si accontenta delle rassicurazioni, di chi ti fa ancora rivolta e rivoluzioni.